Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Signora, che le è successo? Le chiesi. Stai zitto, Riccardo, non ho chiuso occhio per tutta la notte. C'erano gli angeli in camera mia, che cantavano. E non hanno smesso fino a stamani. Io provavo a dire loro di smetterla, di lasciarmi riposare, ma niente, loro non mi ascoltavano. Sono Riccardo Bonelli, ho 39 anni e vivo a Borgo Bugiano, in Toscana. Della vita che conduco non mi posso lamentare. Il capolavoro che lascerò a questo mondo è una bambina di quasi 11 anni, che si chiama Martina, e è la mia figliola. Raggiungemmo Arezzo poco prima di mezzogiorno e trascorremmo più di 2 ore alla ricerca del castello rinascimentale che lo scrittore venezuelano Miguel Otero Silva aveva comprato in quell'angolo idilliaco della campagna toscana. Era una cocente, indaffarata domenica d'inizio agosto e non era facile trovare qualcuno che sapesse qualcosa nelle strade gremite di turisti. Dopo diversi inutili tentativi, tornammo alla macchina e lasciammo la città per una strada costeggiata da cipressi senza alcuna indicazione. Una vecchia donna che badava alle oche ci disse con precisione dove si trovava il castello. Prima di salutarci ci chiese se avessimo intenzione di dormire là e noi rispondemmo che no, saremmo rimasti solo per il pranzo, come era la nostra intenzione iniziale. Meglio così, disse lei, perché la casa è infestata. Questo pezzo è tratto da un racconto di Gabriel García Márquez, è solo l'inizio e più tardi nella seconda parte vi leggerò la fine di questa storia, che è molto breve e si trova facilmente. Si intitola I fantasmi di agosto, è tratto da una serie di una raccolta di romanzi, perdonatemi, che si intitola Spettri e fantasmi, 27 storie agghiaccianti. Oggi ho aperto con questa storia e chiuderò con questa storia per fare da cornice, direi, alla storia di Riccardo, che non parla di fantasmi o di castelli infestati, parla però di stanze d'albergo e di angeli. Buongiorno a tutti, sono le 16 e quasi 10 minuti di un bel venerdì 7 di giugno 2013. Sono ufficialmente chiuse le scuole, perlomeno a Milano o in Lombardia, non lo so. Ho visto gente con le uova rotte in testa, tutti infarinati. Credo sia una nuova usanza dei ragazzi che finiscono le scuole. Davanti a casa solo uova per terra e gente che aveva la faccia di una frittata. Viva le mamme che vanno in vacanza con i figli, le città che si svuotano e viva soprattutto gli alberghi infestati dagli angeli, come racconta Riccardo. Oggi direi che per ascoltare questa puntata, se siete in auto e state tornando a casa o se avete un appuntamento di lavoro, con le cose che più o meno succedono, per cui ci si trova in auto alle 16 e quindi si ascolta questo programma. Se state portando a casa i vostri figli da scuola, magari è l'ultimo giorno, la cosa che vi chiedo oggi è di sospendere per un attimo il vostro cinismo. Ecco, lasciate a casa oggi, ascoltando questa puntata, tutto il vostro senso della realtà, perché la storia di Riccardo parte da una cosa, da un punto molto, molto semplice, ed è un giorno al lavoro. Riccardo lavora in un albergo, lavora nel ristorante di un albergo per la precisione, e incontra una signora che gli dice di avere sentito degli angeli in quella stanza. Riccardo poi ci racconterà meglio come è accaduto e quello che lui crede oppure no. Che ci crediate oppure no, oggi noi parliamo non tanto di angeli, però parliamo di alberghi, di stanze d'albergo, perché anche nel racconto di Márquez tutto accade in la stanza di questo castello che potrebbe essere benissimo un bed and breakfast. Le cose più assurde che vi sono successe in quel maledetto albergo, quel maledetto bed and breakfast, quel maledetto ostello. 349-238-6666 se avete un profilo Facebook. Voi siete qui, Radio 24. Qualunque sia la cosa che vi è successa, non devono per forza essere angeli o fantasmi. Oddio, se è così è anche meglio. Se però è successo qualcosa di particolare, sapete quei posti dimenticati da Dio e dagli uomini in cui vi trovate magari di notte, all'ultimo momento l'avete prenotato su Booking o avete chiamato alla cieca, vi trovate lì e non è l'Overlook Hotel, non è l'hotel di Psycho, come si chiama la pensione di Psycho? Al cognome si chiama Motel Parker Motel. Vabbè, dopo ci arriviamo. 349-238-6666. Quella cosa assurda che vi è accaduta in quell'albergo. Sospendete il giudizio, qui si parla di angeli. Ho sempre visto la mia esistenza come un gomitolo che io stesso srotolo con un po' di impegno, giorno dopo giorno. A volte ci trovo un nodo che mi costringe ad aguzzare gli occhi e le unghie, sì, ci perdo un po' di tempo, ma alla fine mi guardo indietro e riconosco sempre il colore, la sostanza, la consistenza di quell'unico filo la cui opposta estremità è legata al giorno della mia nascita. Ci sono dei veri e propri argomenti ricorrenti che mi perseguitano negli anni e nell'apparentemente caotico circo in cui si trasforma a volte la mia personale valle di lacrime. Fra questi argomenti rientrano, e non saprei perché, stranamente, gli angeli. Io credo un po' a tutto, ai miracoli, alla magia, a cose impossibili e incredibili. Magari non credo a tante cose che tanti danno per vere, certe, scontate. Me le ritrovo spesso fra i piedi, queste figure forse sopravvalutate. Eroi piumati come i bersaglieri, tanto presenti nell'arte e in tutte le fantasie umane. E mi sono anche convinto di averli incontrati, riconosciuti, travestiti da persone che mi hanno salvato in momenti particolari, oppure raffiguranti statuine, disegni o altri oggetti che mi capitano fra le mani in giorni particolari. Io per vivere non faccio il prete, indosso una cravatta o un papillon e servo pietanze e sorrisi ai clienti nella sala da pranzo di un grande albergo. Un aspetto che amo particolarmente del mestiere è il dialogo che nasce a volte con le persone. Spesso è solo un compito da assolvere, si parla del tempo che fa fuori dalla finestra, della carne che è immangiabile perché è troppo dura o della frutta che non ha più il sapore di una volta. Non di rado però salta fuori anche un argomento decente che mi appetisce particolarmente e che mi riporto a casa per gustarmelo magari in bagno al posto del giornale o del libro. Una volta una signora, una cliente abituale nota per la sua stravaganza, mi si è presentata a colazione tutta agitata e di cattivo umore. Signora, che le è successo? Le ho chiesto. Stai zitto, Riccardo, non ho chiuso occhio tutta la notte. C'erano gli angeli in camera mia, che cantavano e non hanno smesso fino a stamani. Io provavo a dire di smetterla, di lasciarmi riposare, ma niente, non mi ascoltavano. Cercando di non tradire alcuna espressione, sono rimasto attonito e non sono riuscito a pronunciare commenti se non a emettere un... È difficile proseguire una tale conversazione davvero, eh? Mi è mancata la prontezza di chiederle come erano fatti, ad esempio, o che cosa cantassero, e in quale lingua cantassero. Niente di tutto questo, solo un... Non l'ho presa per matta, anzi, ho assunto la convinzione che per un qualche assurdo motivo gli angeli abitino la stanza 119 dell'albergo. Ma sono clienti come gli altri che vanno e vengono, oppure quella è proprio la loro residenza abituale? Insomma, qualche giorno dopo la camera si è liberata, almeno della sua inquilina umana. E prima che venisse rioccupata, ho rubato in reception la chiave di quella ipotetica succursale del cielo. Ho fatto una corsa al primo piano e sono entrato pensando fra me e me a quanto spesso mi ritrovi in situazioni surreali. Sì, credo che ci sia qualcosa, credo magari che non siano proprio quelle figure che vengono rappresentate con le ali e che ci hanno presentato fin da piccoli. Comunque che ci sia qualcosa, qualche entità che ci segue. La stanza era una normalissima camera d'albergo, niente di strano o trascendente. Ordine, silenzio, come in quasi tutte le altre 100 camere dell'hotel quando sono dismesse. Ecco però finalmente qualcosa di strano. Un profumo meraviglioso mi ha preso, come se l'ambiente si fosse riempito di fiori. Ho quasi iniziato a crederci. Sì, loro, quelli del piano di sopra, ho pensato preferiscono gli ultimi. Come capitò ai pastorali di Fatima. E io sono un cameriere. Poi la delusione. Ho realizzato che quello che sentivo e mi stava convertendo altro non era che il deodorante per ambienti che le cameriere brontolando spruzzano con generosità nei bagni. O almeno credo. Ognuno crede a quello che vuole. Ognuno trova una propria forma di superstizione con cui scongiurare la realtà. Che poi quello in cui creda sia vero oppure no, questo è quasi meno importante. Credo sia più importante la misura dell'effetto che quella credenza ha su ognuno di noi. C'è chi crede nelle vecchie tradizioni popolari e quindi pensa che bruciare dei manichini in cima a un falò il martedì grasso, ad esempio, porti fortuna e porti buoni raccolti per l'anno a venire. C'è chi crede nella scienza e pensa di poter dare un senso al mondo attraverso formule e analisi che dimostrano teorie. C'è chi crede in energie che scorrono dentro ognuno di noi e sfociano chissà dove e chissà come. C'è chi crede nella natura e quindi immagina che il mondo abbia un suo ordine ben preciso, dovuto solo ed esclusivamente alla rotazione della Terra e alle forze misteriose che la governano. Alcuni credono che il mondo sia stato generato in pochi giorni da divinità buone e paterne che stanno sopra la nostra testa, vedono tutto, sanno tutto e decidono per noi. Altri invece credono che esista un grande disegno universale e non casuale, che va in una direzione ben precisa e tutto avviene per via di quel disegno. Altri ancora credono che le statue piangano, che le fotografie parlino o che se si suona al contrario un disco dei Beatles si è indotti al suicidio. E poi, tra tutti questi, ci sono signore che la notte, in una stanza d'albergo, non riescono a dormire perché gli angeli lì cantano a squarciagola. La Treccani definisce l'angelo un messaggero o un ministro, con un senso specificamente religioso di essere sovrumano, intermediario fra il cielo e la terra, fra Dio e gli uomini, di cui Dio si serve per annunciare agli uomini e per fare eseguire sulla terra la sua volontà. Una volta conobbi una persona che diceva non solo che gli angeli esistevano, ma che erano presenti lì in quel momento stesso in cui stavamo parlando io e lei. «Guarda, ce n'è uno proprio qui accanto a te, ti sta sorridendo», mi disse. Quella cosa mi inquietò al punto che la salutai e non la vidi mai più. Però di tutte le definizioni o spiegazioni riguardo agli angeli, la mia preferita rimane quella che diede il poeta John Milton, in quel capolavoro assoluto che scrisse che è Il Paradiso Perduto, in cui dice così. Milioni di creature spirituali si muovono non viste sulla terra, quando siamo svegli, come quando dormiamo. A meno che non lo abbiate ascoltato alla BBC, questo pezzo non l'avete mai sentito da nessun'altra parte se non qui. È una cover dell'ultimo pezzo dei Daft Punk che Tiziano ha scovato, non ho capito bene dove, credo sulla BBC, BBC One, che potete recuperare se volete dal sito di Radio 24 alla nostra pagina. Voi siete qui attraverso un link di YouTube. 349-238-6666, sembra perfetta per parlare di angeli questo pezzo. Perché scrive Max da Melegnano, dice: «Ciao, io parlo da almeno 10 anni al mio angelo custode che vigila su di me. Si chiama Manekel. Ciao». Com'è che gli hai trovato il nome, Max? Gliel'hai dato tu o te l'ha comunicato? 349-238-6666, c'è però qualcuno che, non ho capito bene se li ha visti o li ha sentiti attraverso l'odore, però quantomeno di angeli ci ha mandato una storia. Pronto, Riccardo? Ciao, Matteo. Come stai? Bene, bene, grazie per aver letto così bene la mia novella. Ma figurati, dove ti trovi? Dove ti trovi, Riccardo? Poi il termine novella è fantastico, credo sia solo dalla Toscana può arrivare una definizione tale di un racconto. Sei al lavoro o sei a casa? No, sono a casa in questo momento. Perché tu lavori quando? Mattina, pranzo, cena? Sì, di solito lavoro, faccio 2 turni, la mattina e la sera. In un grande albergo di dove, me lo ricordi? Di Montecatini Terme. Ok, quindi sono gli alberghi quelli che no, nascono vicino ai complessi termali, sì. Sostanzialmente. E la clientela abituale sono quindi persone più o meno su con l'età oppure è una credenza antica quella? Più che altro su con l'età, sì, non gira molta gioventù, vedo di rado. Tu quanti anni hai, Riccardo? Io ho 39. Ok, e hai già una figlia, un figlio? È una figlia di 11 anni, Martina. Già, insomma, a 39 anni c'è gente che ne aveva già fatti 4, erano già praticamente laureati qualche anno fa. Una volta magari a queste età erano già nonni. Riccardo, senti, invece dimmi una cosa, perché alla fine il racconto è molto suggestivo ed è molto bello, però non ho ancora capito esattamente. Quell'odore era deodorante, abbiamo detto, giusto? Sì. Ok. La signora però ne era certissima di averli sentiti era cantare. Certissima di aver visto gli angeli, di averli sentiti cantare. Ma di questa signora che cosa sappiamo di più? Di cosa sappiamo di più di lei? Senza dire il nome, ovviamente. Sì, sì. È una bellissima persona. Una bellissima persona che ogni volta ci racconta le sue storie, surreali o meno, a tutte le sue convinzioni, tutte le... È una cliente frequente dell'albergo? Sì, frequente. Cioè viene più di una volta all'anno? Per questo intendo frequente? Sì. Ok. Riccardo, invece tu dicevi, io credo un po' a tutto, ma non capivo se lo dicevi tipo... Non mi faccio troppe domande, oppure ti piace immaginare che esistano delle entità diverse dalle nostre? Che ci sia qualcosa di più, perché il giorno che si smette di credere è finito tutto. Ora, appunto, sono più portato a credere alle cose impossibili. Tipo, fammi un esempio, Riccardo. No, tempo fa ho letto una cosa bellissima. Sì. Che dice, di a una persona che nell'universo ci sono 70 mila miliardi di stelle, e questa ti crederà senza farti una domanda. Metti invece un cartello con scritto vernice fresca su una panchina e tutti vanno a toccare per vedere se è vero. Io sono così. Cioè, quindi fai fatica a credere che ci sia la vernice fresca e invece hai la sensazione... Vedere se è vero. Che tipo di studi hai fatto? Che formazione... Cioè, è una cosa che hai sempre avuto, un tipo di curiosità? Io sono un ignorante, ho fatto soltanto l'istituto alberghiero, e mi sono preparato per il lavoro... Beh, insomma, quindi hai fatto qualcosa per conto mio, sono un autodidatta. Ok, che tipo, dimmi qualcosa che hai letto riguardo a questo argomento. No, questo argomento niente di particolare. No. Ah, ok, quindi semplicemente le letture non sono portate per le cose fantastiche o no, sei un novello, insomma, della materia angeli. Sì, mi ci sono imbattuto. Hai fatto qualche studio particolare adesso? Hai cercato qualcos'altro? No, ti è bastata la signora? Sì, infatti. Che... mi basta una storia. Senti, dimmi invece un po' in albergo come sta andando? La gente ci viene sempre, sono diminuiti i clienti, le persone continuano a venire oppure si sente una flessione anche lì? Rimanendo nel paradiso, grazie a Dio, si lavora, perché in giro c'è parecchia crisi. Anche proprio nella città dove lavoro io, Montecatini Terme, la crisi anche nel mio settore si sente parecchio. Quindi sempre ringraziando quello lassù, chi c'è al posto suo, si lavora. Tu sei credente, Riccardo? Sì. Ma sei credente... A modo mio. Che cosa vuol dire a modo mio? Non sono un bacchettone, non vado in chiesa tanto spesso, comunque a mio modo credo e mi rivolgo all'entità che è lassù. Sei sposato? Ero. Ah, ok. Sì. Però, insomma, avevi fatto il percorso, avevi fatto quello giusto, insomma, sì, i sacramenti, sì. Diciamo così. All'inizio sì. E poi hai fatto un passo indietro. Esatto. Riccardo, senti, ti ringrazio per il racconto e ti lascio andare. Cosa fai adesso? Ti riposi? Che ora è il prossimo turno? Oggi sono di riposo. Ok. Quindi... Invece domattina che ora vai al lavoro? È abbastanza presto, verso le 6:30, 7. Poi torni? Quante ore hai libere? Pomeriggio libero e rilavoro poi la sera per la cena. Fino alle 11, mezzanotte? No, anche prima, alle 10. Ah beh, perché effettivamente albergo termale si va a letto presto. Sì. Riccardo, grazie, in bocca al lupo per tutto. Bene, grazie a te. Ciao, buona giornata. Grazie. Ciao. Qualcuno mi scrive, ho una storia sugli angeli che si ripete, però, come dire, darmi il titolo non è come raccontarmela. Voi siete qui. È in mezzo a un bosco, Riccardo, nella foto che ci ha mandato, che trovate come al solito sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui, alla puntata che si intitola Gli Angeli. È seduto su un tronco, su un albero che è appena piegato, alle sue spalle credo degli ulivi, però l'erba è coperta dall'ombra che fanno le piante. Lui è vestito in un modo che è a metà tra un militare, un cacciatore e un cercatore di funghi. Albergo. Edificio attrezzato per fornire alloggio ed eventualmente vitto a chi soggiorna temporaneamente in un luogo. Arcaico e poetico, sede, dimora. Arcaico, alloggio a truppe di passaggio. Etimo, dal gotico, aribairg, riparo dell'esercito, attraverso le varianti del latino medievale, aribergum, arbergum, albergum. Data, prima metà, secolo XIII. Perché noi mettiamo le definizioni appunto così, come se fossero semplicemente un pezzo del programma, e in realtà spesso e volentieri sono forse la parte più interessante del programma, grazie anche ad Alessandro De Luca. Alessandra De Luca, vorrei rispondere a Marco da Vicenza, che chiede se la cover dei Daft Punk è appunto una cover all'originale. Allora te lo ripeto, Marco, no, è una cover di Get Lucky, che è cantata da un gruppo che si chiama Daughter. Ma trovi, ripeto, vai sul sito, sulla nostra pagina, Voi Siete Qui, e ci trovi direttamente il link al video di YouTube di quel brano lì, che non è inciso, non è registrato da nessuna parte, quindi puoi ascoltartelo lì. Ringrazio molto Antonio Di Novate, che mi scrive che il racconto di Marquez, di cui ho parlato all'inizio e di cui voglio leggervi la parte finale adesso, si intitola Spaventi di agosto, non Fantasmi di agosto, ed è tratto da 12 racconti raminghi. Io evidentemente ho trovato un estratto di questo racconto in una raccolta più ampia, ma effettivamente il titolo originale che diede Marquez a quei 12 racconti appunto 12 racconti raminghi. Voglio leggervi la parte finale di questo racconto, per cui se non avete sentito l'inizio è molto semplice. Immaginatevi una famiglia che è in giro per la Toscana, è estate, fa molto caldo, sono madre, padre e due figli, uno di 7 e uno di 9 anni. Hanno appuntamento con questo scrittore venezuelano che si è trasferito a vivere in Toscana, nella campagna di Arezzo. Ha preso un castello e l'ha rimodernato. Mentre si avvicinano a una signora che bada alle oche e dice: mi raccomando, non dormite in quel castello perché è posseduto, è infestato di spettri. Loro ci arrivano, vogliono solo pranzare, poi però la giornata si allunga, stanno bene, bevono un caffè, ritornano, cenano e si fermano a dormire. E questo è quello che succede. E poi al piano superiore visitammo una stanza conservata intatta, cui il tempo aveva dimenticato di far visita, la camera da letto di Ludovico. Il momento fu magico, c'erano il letto, le sue coperte ricamate con filo d'oro, il copriletto e i suoi prodigi di passamaneria ancora raggrinziti dal sangue asciugato della sua amante sacrificata. Vi era il focolare con le sue fredde ceneri e il suo ultimo ceppo divenuto pietra, l'armatura con le armi cariche e in una cornice d'oro il ritratto ad olio del Cavaliere Triste, dipinto da qualche maestro fiorentino che non aveva avuto la fortuna di sopravvivergli. Quel che mi colpì maggiormente, comunque, fu l'inspiegabile profumo di fragole fresche che pervadeva l'intera stanza da letto. I giorni d'estate sono lunghi e scorrono senza fretta in Toscana, e l'orizzonte rimane al suo posto fino alle 9 di sera. Quando completammo la visita al castello erano passate le 5, ma Miguel insistette per condurci a vedere gli affreschi di Piero della Francesca nella chiesa di San Francesco. In seguito ci intrattenemmo a lungo per il caffè in una piazza tra gli alberi, e quando tornammo a prendere le valigie trovammo una cena ad attenderci. Così restammo per la cena. Mentre stavamo mangiando sotto un cielo color malva con un'unica stella, i ragazzi presero delle torce dalla cucina e partirono per esplorare l'oscurità dei piani superiori. Dalla tavola potevamo sentire il galoppo dei cavalli selvaggi su per le scale, le porte cigolanti, le urla gioiose per chiamare Ludovico nelle stanze oscure. Erano gli unici che avevano avuto l'idea perversa di dormire là. Un deliziato Miguel Otero Silva li sosteneva e non avevamo avuto l'ardire di dir loro di no. Contrariamente a quanto temevo, dormimmo veramente bene. Io e mia moglie in una stanza al primo piano e i ragazzi in un'altra vicino alla nostra. Entrambe le stanze erano state rimodernate e non avevano nulla di tetro. Avendo indugiato per dormire, contai i 12 rintocchi insonni del pendolo nel salotto e ricordai l'avvertimento spaventoso della donna che badava alle oche. Ma eravamo così stanchi che presto cademmo in un profondo e ininterrotto sonno e mi svegliai dopo le 7. Con un meraviglioso sole splendente tra le piante rampicanti della finestra. Al mio fianco mia moglie navigava il mare calmo dell'innocenza. Che idiozia, dissi tra me, credere ancora ai fantasmi al giorno d'oggi. E solo allora fui scosso dal profumo di fragole fresche e vidi il caminetto con la sua fredda cenere e il suo ultimo ceppo divenuto pietra, mentre il ritratto del malinconico cavaliere nella cornice d'oro ci guardava da una distanza di 3 secoli. Perché noi non eravamo nella stanza da letto del primo piano dove ci eravamo addormentati la notte prima, ma nella stanza da letto di Ludovico, sotto il baldacchino e le coperte polverose e le lenzuola imbevute del sangue ancora caldo del suo letto maledetto. You're on in fast time, your eyes or fade. But all you hide from sun. cose che mi ha fatto più piacere dei commenti che sono arrivati gli anni passati dopo il live finale dello spettacolo del programma radiofonico, di questo programma, fu quello di un amico che mi disse: è incredibile come diventi la quotidianità diventi eccezionale nel racconto nei racconti che arrivano delle persone che vanno in onda tutti i giorni e che vengono condensati in quella serata che ha sempre un clima di festa. Torno ad invitarvi, avete tutto il fine settimana per iscrivervi a giovedì 27 giugno alle 21 al live finale di Voi Siete Qui, in diretta dal vivo gratuitamente dalla sede di Radio 24 in via Monterosa 91. Per iscrivervi bisogna semplicemente iscriversi, andate sul sito di Radio 24 alla nostra pagina Voi Siete Qui, in alto a sinistra c'è una foto con la mia faccia, cliccate lì sopra e compilate semplicemente il form dell'iscrizione, dovete mettere alcuni dati, nome, cognome, eccetera eccetera, cliccate invia, lo stampate, vi presentate qui giovedì 27 alle 21. Nicola mi ha scritto: buongiorno, sono Nicola, ho fatto l'iscrizione per la serata del live, non sono riuscito a stampare ma ce la farò, ci piacerebbe tanto essere dei vostri, considerato il fatto che dobbiamo muoverci da Bari con unico motivo assistere alla serata, vorremmo essere certi di avere accesso alla sala. Trova il modo per stamparlo, la faccia di Fabio, la serata che ho fatto io, che ho detto: ma da Bari apposta. E non è l'unico, ieri leggevo qualcuno che arriva da Lecce, diciamo è più lontano Lecce o Bari a questo punto? Bari direi. Lecce più giù. Continuiamo a raccogliere le iscrizioni di chi arriva più lontano per il 27 di giugno. Iscrivetevi attraverso il sito. Grazie a tutti, grazie a Margherita Ina, a Fabio Cantadori e a Tiziano Bonini. Grazie soprattutto a Riccardo. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Anna di Chiari, in provincia di Brescia. La storia di lunedì è la mia e parla di matriosche. Questa è la mia storia e io sono qui.